第二段。 Bet. Avi. Hineni veni. Mihi. Hi Chava. Umihu. Hu Adam. Hem Adam vechava. Hu Adam vehi Chava.Hema Adam vechava. Shalom lachem. Shalom lecha. Mi ata? Anochi Levi. Mi henna? Hen imi vedina.Dina achoti. Umi hem? Hu avi? Vehu reuven achi.